Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Dal 17 al 20 maggio si svolgerà il forum della pubblica amministrazione. Quello che ci si domanderà in questa sede in particolare è che cosa possono fare le pubbliche amministrazioni per abbattere l'impronta ambientale dei propri sistemi informatici. Tutti sappiamo che la completa informatizzazione della pubblica amministrazione è un obiettivo di valore strategico proprio per renderla più efficiente, ma dal punto di vista energetico non è affatto indifferente il modo in cui l'informatizzazione verrà applicata. Cerchiamo allora di capire quali sono i punti chiave da tenere presente per una PA più efficiente anche dal punto di vista dei consumi energetici. Ne parliamo con una delle maggiori esperte del settore, Giovanna Sissa, autrice 2 anni fa di Il Computer Sostenibile. Buonasera Sissa. Buonasera. Allora facciamo una premessa prima di andare al tema che ci interessa, perché comunque l'informatizzazione potenzialmente può contribuire a ridurre varie voci di consumo energetico della pubblica amministrazione. Certamente, pensiamo al telelavoro, ai dipendenti pubblici, se potessero almeno per una porzione del loro tempo lavorare in remoto da casa, si risparmierebbe sui trasporti. E quindi si risparmierebbe sul traffico, ma si risparmierebbe anche sugli uffici, sul mantenimento degli uffici. Certo, riscaldamento, illuminazione e quant'altro, assolutamente. Certo. Pensando ai cittadini invece, possiamo pensare al cittadino che non deve recarsi all'ufficio pubblico. Tutto questo significa grossi risparmi. Certo, ecco, però adesso invece noi ci concentriamo sulla qualità dell'informatizzazione, la vogliamo verde per così dire. Tanto per cominciare, informatizzare vuol dire utilizzare più hardware che consuma appunto energia. Che cosa si può fare per tenere sotto controllo questo aspetto? Ci sono degli accorgimenti molto semplici, pensiamo ai computer, ai PC degli uffici pubblici. Per esempio l'amministrazione britannica, in un suo piano di Greening Government ICT Strategy, ha ipotizzato che spegnendo durante la notte 500.000 computer degli uffici pubblici britannici si arriverebbe a un risparmio equivalente a togliere dalle strade 40.000 automobili. Esistono sistemi automatici per effettuare questa operazione senza affidarsi alla buona volontà? Esistono e sono disponibili ed usati. C'è da dire che senza una consapevolezza diffusa di queste problematiche gli interventi non hanno molta efficacia. Senta, lei è una delle poche persone esperte del settore che guarda non solo all'hardware ma anche al software. In che modo il software incide sui consumi energetici? Incide tantissimo perché diciamo è alla base della catena causa-effetto che produce poi dei consumi energetici, cioè l'elaborazione. Spesso si è evidenziato anche in una vostra trasmissione che a fronte di un watt effettivamente utilizzato per il calcolo, un data center ne consuma ordini di grandezza in più. È chiaro che se noi riusciamo a intervenire su ciò che genera il consumo, quindi se facciamo del software efficiente, abbiamo un guadagno molto più grande che se agiamo su altri livelli della catena. Come il raffreddamento dei data center e aspetti del genere. Cioè lei dice, se noi riusciamo a mettere a punto un software che fa le stesse elaborazioni, facendo la metà dei calcoli, ci serve la metà della potenza di calcolo e quindi insomma risparmiamo metà dei consumi energetici, in parole povere. Certo, pensiamo che spesso si fanno, specialmente quando si parla di elaborazione sui dati, si fanno una grande quantità di operazioni semplici. Se noi rendiamo più efficiente l'operazione elementare, i risparmi che ne derivano sono grandissimi. Si può arrivare, ad esempio, intervenendo su architetture di dati o su caratteristiche di database, a 3 ordini di grandezza nei risparmi energetici che ne derivano. Questo sarebbe tutto lavoro per i programmatori, insomma, bisogna proprio certo Fare una programmazione più attenta a questi aspetti. Diciamo che sarebbe opportuno rincominciare a preoccuparsi di aspetti di cui da parecchio tempo a questa parte ci si occupa piuttosto poco. In questo senso sarebbe anche bene investire su professionalità e su conoscenze specialistiche orientate a questo. Senta, un altro tema abbastanza caldo è quello della proliferazione dei dati, che peraltro sono esattamente il core business della pubblica amministrazione, che non fa altro che gestire dati. Lei cosa ne pensa? Guardi, i numeri sono impressionanti, perché quello che viene chiamato a volte universo digitale, cioè l'insieme di tutte le informazioni digitali diciamo che esistono, nel 2006 era di 160 per 10 alla 12 byte, numeri con tanti zeri che non si riescono assolutamente a visualizzare. Esatto. Che se invece li vogliamo rappresentare visivamente, possiamo pensare a 12 pile di libri, ognuna di queste alte quanto la distanza dalla Terra al Sole. Cioè 150 milioni di chilometri, per la precisione. Ma la cosa più interessante è che nel 2011 è previsto che questa quantità sarà 6 volte più grande, quindi è il trend di crescita che è incredibile. Che è incredibile. Quindi sono tanti hard disk, se per semplificare, che rimangono accesi inutilmente, perché a volte questi dati non sono, come dire, duplicati per avere una certa sicurezza, ma sono triplicati, quadruplicati e così via. Certamente, un'altra cattiva abitudine a cui l'opulenza informatica, l'opulenza elettronica, diciamo, e la decrescita dei costi ci ha abituato è a non preoccuparci di questo aspetto, a non preoccuparci delle ridondanze inutili, perché l'ipotesi, l'asserto di fondo è che i sistemi di storage non costino praticamente nulla. Grazie Giovanna Sissa. Grazie a voi. Questo è tutto, domani cercheremo di capire come far convivere su uno stesso terreno agricoltura e fotovoltaico. Buona serata.